get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Allora, buonasera, con un po' di confusione che non ci lascia mai. Buonasera a tutte. Allora, io sono Caterina del coordinamento Lesbiche Romane. Quella che sta andando in onda è la nostra 178esima trasmissione. Quella di stasera è una di quelle puntate che ci danno moltissima soddisfazione, chiaramente a noi del CLR, e ci piacerebbe condividere questa soddisfazione sperando che tutta l'energia che noi abbiamo ricevuto da quanto qui questa sera andremo poi più avanti a resocontare, tutta l'energia, dicevo, possa essere in qualche modo condivisibile. Perché dico questo? Perché stasera parleremo di un progetto ideato per l'Italia da Il Mosaico Onlus, che vedeva coinvolte e coinvolti molte e molti giovani che si sono dati appuntamento a Porto Alegre in Brasile per affrontare tutta una serie di problematiche legate alla discriminazione. Allora, all'inizio, quando abbiamo contribuito economicamente come gruppo alla partecipazione di Elena, ci piaceva pensare che noi del CLR ci saremmo state, ed inizialmente pensavamo di aver mandato, come dire, una inviata, o meglio una nostra rappresentante, oppure una portavoce. Ma poi alla fine ci siamo rese conto che francamente quello che a noi interessava di più era che una giovane donna lesbica, femminista e separatista potesse partecipare a questa esperienza internazionale, e che poi, e soltanto in un secondo momento, potesse raccontarci quanto la sua partecipazione fosse stata importante. Chiaramente importante per lei, importante per la relazione che si è attivata con le altre realtà esistenti, importante per il fatto stesso di essere riuscite a rendere fattibile un incontro internazionale del genere con queste tematiche affrontate. Inoltre, da non mettere in secondo piano, c'è anche l'importanza per noi come gruppo politico di restare in contatto con quanto ci accade intorno, e quindi riuscire ad essere sempre presenti, collegate, mai staccate dalla realtà. Allora, da Roma sono partite tre ragazze, nessuna di loro aveva più di 30 anni. Queste tre ragazze che noi abbiamo invitato a questi microfoni stasera sono state Elena, la nostra Elena del CLR, e poi la Casa Internazionale ha indicato altre due donne, che sono Sabrina e Rosa. Allora, Sabrina e Rosa avrebbero dovuto essere qui con noi entrambe, ma invece per problemi di lavoro Sabrina non è riuscita a liberarsi, quindi con noi ci sono soltanto Rosa ed Elena. Buonasera a tutte. Ciao a tutte. Allora, ognuna di loro a Porto Alegre ha affrontato le problematiche esposte seguendo filoni diversi, e stasera, come dicevo prima, nel proseguo della trasmissione ne parleremo insieme. Poi la scaletta di stasera prevede, oltre a questo resoconto, anche la lettura del comunicato che ci premeva farvi ascoltare, e che il CLR ha redatto tempestivamente la settimana scorsa in seguito alla sentenza della Cassazione, così, insomma, tanto per rimanere in tema con la discriminazione. Discriminazione che in questo caso specifico è stata praticata su una giovanissima donna di appena 13 anni. Poi, ovviamente, come tutte le trasmissioni, a noi farebbe molto piacere se chi ci ascolta riuscisse ad inviarci un SMS. Più che altro per farci capire cosa pensa di quanto stiamo dicendo, oppure semplicemente per farci sapere che sta all'ascolto. Il cellulare sul quale inviare le vostre riflessioni è 338 41 46 682, oppure potete fare i graditissimi trillini, che poi non sono altro che fare uno squillo e riagganciare, e al numero qui di Radio Onda Rossa, che è lo 06 49 17 50. Allora, se siete d'accordo, visto che ho straparlato abbastanza, io direi adesso di fare un breve stacco musicale e vi vorrei far ascoltare Janis Ian con la canzone When the Silence Falls. Un attimo che la metto. Un po' di casino, ma poi alla fine è partita. What you gonna do when the silence falls? What you gonna do when the silence falls? Dance alone to the radio, all dressed up, no place to go. What you gonna do when the silence falls? Allora, come vi avevamo detto all'inizio, vorremmo iniziare questa nostra trasmissione leggendovi due comunicati, uno fatto dal CLR, sempre relativi entrambe alla sentenza della Cassazione, che ci leggerà Elena, e l'altra che ci leggerà Rosa, che invece è stata fatta dalla Casa Internazionale delle Donne. Prego. Vado a leggere appunto la sentenza, appunto il comunicato del coordinamento lesbiche romane. La sentenza della Corte di Cassazione di ridurre la pena allo stupratore di una 14enne è stata definita scioccante. A nostro parere essa altro non è che la stessa faccia della medaglia delle sistematiche violenze cui siamo sottoposte nel mondo: infibulazione, burka, chador, sfigurazione del volto con l'acido, assassinio della moglie per avere disponibile un'altra dote, infanticidio sistematico delle bambine e così via. Tutto ciò sembra appartenere a culture barbare, lontane dalla nostra, occidentale e democratica. I telegiornali hanno definito la notizia con la frase sentenza shock, ma lo shock non è una categoria d'analisi. I giudici hanno detto con la pancia ciò che profondamente credono e sentono. Sono evidentemente afflitti da palese sessismo, che andrebbe considerato per quello che è, un serio disordine mentale. Infatti sono gli stessi giudici nani della terza sezione penale della Cassazione che nel 1999 emisero la prima famigerata sentenza, non si può parlare di stupro se la vittima indossa i jeans, ed ora sono persino recidivi. Forse l'unica legge ad personam corretta sotto il profilo sociale e politico sarebbe quella di un provvedimento legislativo mirato ed urgente per rimuoverli, prima che possano ancora nuocere alle donne. Per tale ragione andrebbero immediatamente cacciati dalle aule di giustizia, in modo che nel prossimo futuro nessuna bambina di 14 anni debba subire un'ulteriore cieca violenza, quella cioè di essere considerata considerata meno violentata perché non integra. Questa assurda scala di valutazione svela la meschinità che non è e non può essere limitata solo a quei maschi che rivestono la toga e che materialmente hanno redatto la sentenza, ma che purtroppo si estende a larga parte della popolazione maschile ed è il frutto della nostra barbara cultura. La sentenza quindi non merita ulteriori commenti se non una riflessione. È stata scritta da una corte monosessuata di cui sarebbe interessante conoscere i nomi e i cognomi, così come sarà largamente monosessuato il Parlamento che stiamo per eleggere, dove, per bene che ci vada, continueranno a legiferare su di noi trattandoci come un soggetto debole, un soggetto da tutelare. La società patriarcale in cui viviamo in realtà è tuttora organizzata sull'esclusione delle donne e sulla prevaricazione violenta di un sesso sull'altro, daditi fatti che ci condannano ad essere marginali, ad essere esclusi dai luoghi in cui si decide. Paradossalmente quei supremi giudici sono stati coerenti con tutto ciò fino alle estreme conseguenze. Questo è l'elemento scioccante, ma ci spiega come ancora sia possibile tanta ingiustizia verso le donne. Per questo noi affermiamo che è necessario prendere la parola ora e soprattutto il potere. Coordinamento Lesbiche Romane. Carissime, quella che vi leggo è il comunicato della Casa Internazionale delle Donne di Roma. Una sentenza tanto orribile da essere ripudiata dalla stessa Corte di Cassazione. È un sintomo importante del degrado italiano in materia di relazioni tra uomini e donne. La sentenza è quella della terza sessione penale della Cassazione, che ha concesso le attenuanti generiche allo stupratore di una tredicenne. Noi donne della Casa Internazionale di Roma esprimiamo la più forte indignazione per questa vergogna. La violenza contro una minorenne rappresenta semmai una pesante aggravante di un atto che offende non solo la singola donna, ma noi tutte. Da sempre, infatti, sappiamo che lo stupro è un crimine politico con il quale un sesso egemone afferma la sua volontà di possesso e di conquista del corpo femminile. Questa sentenza è l'ultimo atto di una serie impressionante di aggressioni alla libertà e alla dignità delle donne, sintomo inquietante del clima di volgarità e di incultura che si è accentuato nel nostro paese negli ultimi anni. L'autonomia delle donne è conquista preziosa e irrinunciabile. Non possiamo permettere che uomini colpiti da sindrome di Lolita si ricompattino in una fratellanza malata. Non siamo disposte, e lo abbiamo dimostrato, a tacere di fronte a queste prevaricazioni. Metteremo in atto tutta la nostra intelligenza e passione perché, nonostante il degrado e lo squallore di questi tempi, si affermi anche nel nostro paese la possibilità di una convivenza finalmente degna di questo nome, tra donne e uomini. La Casa, ovviamente, in rete con le altre donne a livello nazionale, è mobilitata per le iniziative. Vi saranno comunicati i prossimi appuntamenti. Allora, io direi di ritornare all'argomento principale della serata, che è il resoconto di Porto Alegre. Quindi volevo iniziare facendo proprio la domanda più semplice, no? Di cosa si trattava a Porto Alegre, che cos'era? Certo, dunque questo progetto era un progetto di scambio giovanile che mirava a porre al centro delle esperienze, appunto, e del dibattito proprio il tema della discriminazione. Partendo quindi praticamente dall'esperienza personale, dalla soggettività di ognuno dei partecipanti, si sono poi, insomma, toccati temi importanti come appunto quello dell'identità, della famiglia, dell'intolleranza su vari livelli, no? Che spaziavano, diciamo, dal quotidiano fino a quello che, insomma, definirei istituzionale. Al centro di tutto c'era un laboratorio teatrale. E quindi, cioè, ci si potrebbe chiedere perché appunto un laboratorio teatrale. Diciamo che riflettendo sulla mia esperienza, insomma, posso dire che il teatro ha funzionato da spazio di comunicazione, diciamo, e di scambio di esperienza, di vissuti, appunto, ponendo proprio al centro di tutti il linguaggio il linguaggio della corporeità, della gestualità, che ha senza dubbio contribuito a superare un po' le barriere linguistiche che dividevano chiaramente i partecipanti, perché comunque eravamo una trentina di persone. Da dove venivate più o meno? Venivamo appunto dall'Italia, noi della casa, appunto più altri due partecipanti, poi c'erano tedeschi, brasiliani, del posto naturalmente di Porto Alegre, e argentini. Venivamo quasi tutti da associazioni appunto lesbiche, gay o comunque impegnate comunque in ambito sociale, appunto. Okay. E appunto, come dicevo, appunto, questo momento creativo, appunto quello performativo, ha rappresentato sicuramente un canale di scambio di vissuti, diciamo, a partire proprio dal quotidiano, dal nostro quotidiano. Direi che quello che insomma in generale si è venuto a creare in modo anche diciamo veloce, grazie proprio a questa esperienza teatrale, è stata proprio la creazione di uno spontaneo, appunto, di un linguaggio condiviso che in qualche ci ponesse appunto nella condizione di soggetti in dialogo, insomma. E la cosa che più mi sorprende, anche riflettendoci su, diciamo, a distanza di tempo, è senza dubbio questa spontanea negoziazione di regole, diciamo, non imposte, ma appunto emerse proprio nella condivisione. È bellissima questa cosa. Sì, comunque. Infatti era un clima, diciamo, di questo tipo, e le tracce, appunto, di queste regole, diciamo, spontaneamente emerse, erano visibili e chiari, e si ritrovavano comunque anche nei momenti di scambio informale, no? Nelle situazioni di scherzo, di conversazione. Diciamo che insomma c'era un'atmosfera che definirei spontaneamente collaborativa, insomma, quasi democratica, diciamo, di ascolto reciproco. Certo. E quindi, diciamo, il giusto clima per parlare, per discutere un po' tra noi. Ed è in questo clima, appunto, che abbiamo affrontato con grande scrupolosità, appunto, questi temi importanti, temi importantissimi, insomma, attraverso i laboratori teatrali, ma anche attraverso le discussioni che seguivano le nostre visite a certi progetti sociali, e nonché appunto proprio i momenti di riflessione all'interno dei gruppi di lavoro tematico. E peraltro, Caterina, io vorrei anche aggiungere appunto una considerazione che secondo me è importante, cioè, certo, i ragazzi brasiliani provenivano nella maggioranza dei casi da realtà difficili, cioè insomma molti di loro venivano dalle favelas, comunque dai quartieri poveri di Porto Alegre, ed erano stati spesso vittime di discriminazione di vari tipi, prima tra tutti quella legata alla loro identità sessuale, insomma, al loro lesbismo, la loro omosessualità. E questo quindi mi porta a riflettere un po', diciamo, sulla realtà brasiliana. Chiaramente Porto Alegre non è che una città del Brasile, quindi non posso parlare del Brasile tucur, diciamo. Certo. Tuttavia, insomma, credo di poter dire, questo ci viene confermato, anche ci veniva confermato dalle persone stesse che erano lì, che comunque questa città è abbastanza rappresentativa, insomma, del Brasile. E non posso fare a meno di ricordare che, insomma, chiacchierando un po' tra noi, soprattutto eravamo io, Rosa e Sabrina, appunto, sull'autobus che ci riportava verso casa lì a Porto Alegre, abbiamo definito il Brasile come un paese schizofrenico. La definizione era di Rosa, esattamente. Perché appunto è un paese dalle mille contraddizioni, insomma, no? Dalle mille dinamiche sociali, infinite sfumature, insomma, la patria dei grandi sincretismi, insomma, non ce lo scordiamo, queste città, diciamo, che passano dal nuovo al decadente, come diceva Levi-Strauss, insomma, senza passare per la maturità, che sono molto diverse dalle città europee. E quindi, insomma, è la realtà delle periferie urbane del Brasile, appunto abitate da gente di strada, dai niños de rua, cioè i bambini di strada, insomma, che vivono nelle baracche. Io credo che che spesso persone che non sanno di avere diritto ad essere in quanto individui, che non hanno accesso all'informazione, io credo che tutto questo renda ancora più complesso e direi in un certo senso stratificato proprio il problema della discriminazione legata all'identità omosessuale o lesbica. Certo, ma anche io penso che l'affrontare certi temi in una condizione di partenza così sia molto diverso da farlo, certo, da farlo qui, assolutamente, no? Assolutamente. Senti, sì, siccome questo è un argomento abbastanza spinoso e forte, io direi magari di fare un altro piccolo stacchetto musicale. Va bene. E se siete d'accordo, volevo farvi ascoltare Tracy Chapman con la canzone Talking About a Revolution. Don't you know, talking about a revolution sounds like, don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds. Where people gonna rise up and get their share? Where people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run? Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Christ, the dose of service, our means of salvation. Wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution. Allora, io però volevo, se siete d'accordo, mi interessava sapere qualcosa di più sull'esperienza di teatro, perché a parte il fatto che l'espressione corporea poi in qualche modo unire e mettere in relazione anche persone che parlano lingue diverse, come dicevi tu prima, Elena, no? Però ritengo sia anche importante non dimenticare mai l'aspetto emozionale e fisico, perché questo ti consente un coinvolgimento totale, cioè entrare nelle cose con la testa ma anche con il proprio corpo, e la corporeità è importantissima, cioè non si può prescindere da essa, o sbaglio? Assolutamente vero, Caterina, è stato proprio questo il nucleo fondamentale della nostra esperienza, cioè il corpo al centro. E proprio attraverso le tecniche dell'improvvisazione, del gioco dei ruoli, il laboratorio ha veramente avuto un impatto molto forte su ciascuna di noi e su ciascuno di noi. Beh, non posso nascondere che all'inizio non tutti erano propensi a mettersi in gioco utilizzando questo strumento. Erano, direi, quasi resti ad usare il proprio corpo, il contatto fisico, per lasciar passare, no, attraverso il movimento corporeo, un flusso di emozioni, beh, spesso molto intimo e personale. Devo confessarti che, insomma, al di là delle resistenze iniziali da parte di alcuni, poi davvero ci sono stati momenti estremamente coinvolgenti, commoventi quasi, sia in azioni che personalmente a me, cioè, mi hanno vista sia come attrice sia come spettatrice, in cui il messaggio mi è giunto sia, cioè, attraverso, come dire, un movimento, un urlo, uno sguardo, piuttosto che attraverso il contatto verbale. E in genere questo lavoro teatrale, come diceva Elena, è stato un po' il linguaggio condiviso di tutto lo scambio, uno strumento di comunicazione davvero non convenzionale, come dire, un contenitore che ci ha permesso in qualche modo di esprimerci in estrema libertà, dando a tutti, sia da spettatori sia da attori, uno spazio, no, in cui sentirsi interpellati, certo, in prima, certo, persona. Certo. Quindi, cioè, è stata una buona mescolanza, il teatro si è proprio inserito pienamente nei lavori di gruppo, in tutta l'esperienza in generale, perché proprio ad ogni restituzione, no, al grande gruppo, dal momento che eravamo divisi in piccoli gruppi, la restituzione è stata data realizzando delle piccole rappresentazioni teatrali. È stata veramente una prova di notevole interesse, devo dire, perché si trattava poi di lavorare su più piani, no? C'era il contenuto del lavoro di gruppo da trasmettere, c'era poi la trasformazione, no, dal contenuto ad un'immagine, poi bisognava collegarci il movimento corporeo, no? Uh-huh. Per rendere l'immagine, e un po' non ultima, come dire, dare lo spazio di partecipare anche agli spettatori, che spesso proprio nel coinvolgimento sono diventati attori della rappresentazione. Quindi era una cosa interattiva. Assolutamente sì. Non si era mai, sì, di un ruolo solo, cioè non eri mai, sì, né attore né spettatore, ma entrambe le cose insieme. Sì, sì, stupendo, sì. E questo davvero ci ha permesso di creare e ricreare, no? Decostruire storie e situazioni e poi ricostruirne di nuove attraverso l'interazione tra attori e spettatori. Quindi è stato uno scambio continuo, un gioco di ruoli che ci ha visto protagonisti anche da spettatori. E credo che davvero la tematica delle discriminazioni sessuali abbia trovato proprio il proprio nucleo nel corpo, come prima occasione di discriminazione e di non accettazione. Già. Il lavoro sul corpo davvero non è stato semplice, cioè proprio accettare, no, di chiudere gli occhi e lasciarsi andare ad un movimento non finalizzato all'azione, permettere il contatto con lo sconosciuto, no? Con l'altro da sé, dal quale non trincerarsi, non proteggersi, ma in qualche modo lasciarsi avvicinare e sfiorare con fiducia, cioè, e magari riuscire veramente a costruire una relazione attraverso un gioco di movimenti, di sguardi, di contatti. È stato complesso, onestamente, anche per me in questo momento, no? È difficile descrivere fino in fondo questa esperienza e renderla poi a chi ci ascolta. Sei stata chiarissima. Comunque sì. Questo è proprio anche il coinvolgimento totale di cui parlavamo prima, no? Esatto, perché le cose esatto. Si possono affrontare con la testa, razionalizzando, ma se vuoi veramente calarti fino in fondo non puoi superare il corpo, non puoi farlo. Certo, questo insomma da un lato ha minimizzato le barriere linguistiche ovviamente, dall'altro lato veramente ha messo in luce tanti aspetti del temperamento di ciascuno, no? A mostrarsi davanti agli altri, a non attraverso la parola ma attraverso il movimento. Che non è facile certo. Affatto, soprattutto con delle persone che non conosci, è una grandissima prova di affidamento, quindi è importante. Senti, se siete d'accordo facciamo un altro piccolissimo stacchetto. Io volevo proporvi un'altra canzone di una cantante che noi amiamo tantissimo, che è venuta anche da noi alla Casa Internazionale delle Donne al Buon Pastore, ed è Uchi Kuriel. E è una canzone che sembra proprio appropriata all'argomento della serata, perché si intitola Mujer es Tiempo. Quizás tu conciencia ha dormido, tu vientre han estado violando, tus ansias han quedado vacías. Luchar fue tu verbo olvidado. Miraste horizontes perdidos. Has estado entregando a ciegas como el aire en el llano. Mujer, oye tú mi llamado, por ti la esperanza ha brotado, por ti vuelve y nace la vida. Sempre bellissima la voce di Uchi Kuriel. Allora, ma torniamo alla nostra trasmissione di questa sera. Mi sembra di aver capito che comunque in ogni sessione c'era la possibilità di approfondire il lavoro attraverso un'attività un pochettino più specifica, tematica, insomma. Sì. Voi a quale avete partecipato e cosa vi è rimasto di più significativo rispetto al vostro coinvolgimento, per esempio? Sì, dunque, i gruppi tematici, infatti, dunque, noi in primo luogo devo dire che anche gli argomenti sono stati scelti in modo appunto democratico, rispettando questo clima democratico che si era venuto a determinare, diciamo così. Ci siamo divisi in gruppi e ogni gruppo ha elaborato delle proposte, le quali poi sono state votate. Inutile dire che, guarda caso, il mio gruppo aveva proposto il tema del lesbismo, ma non è passato, diciamo così. In ogni caso, i temi comunque affrontati erano la discriminazione e la violenza, il concetto di famiglia, l'educazione formale e informale. E tutte e tre noi, io, Rosa e Sabrina, abbiamo partecipato con molto interesse, devo dire, al lavoro tematico sul concetto di famiglia. Che non è niente male neanche questo. No, infatti, voglio essere sincera fino in fondo. Ho deciso appunto di far parte del gruppo perché è un tema, quello della famiglia, che mi stava naturalmente particolarmente a cuore, che politicamente, si sa, in Italia occupa un posto di primo piano e sul quale noi del CLR dibattiamo, riflettiamo da sempre, insomma, a lungo. E tuttavia io sono partita un po' prevenuta, devo essere sincera, perché io non mi aspettavo che il livello della discussione fosse così elevato, come invece poi alla fine è risultato, devo dire. Cioè, io credo di poter dire che il nostro lavoro è stato chiaramente inevitabilmente condizionato, lo premetto, diciamo, dalla mancanza di tempo, quindi comincio con il dire che secondo me è mancata la parte più propositiva, diciamo così, del nostro lavoro, così come quella di un confronto anche con l'esterno, che comunque all'inizio noi avevamo previsto sotto forma di interviste da fare poi ai cittadini di Porto Alegre. Non sono state fatte invece? No, queste, perché non abbiamo avuto tempo. L'avevamo messe in conto, ma non abbiamo avuto tempo. E altra cosa, è mancato anche un confronto, secondo me, tra, diciamo, anche a grandi linee, tra gli ordinamenti giuridici dei vari paesi di provenienza, insomma. Eh beh, quello penso che c'è tutta la vostra permanenza non sarebbe bastata. No, non sarebbe bastata, ovviamente, però chiaramente, insomma. E tuttavia io credo che fosse ben centrato, diciamo, ben ideato appunto l'approccio generale della nostra riflessione, e la chiarezza, la lucidità, diciamo, con cui abbiamo riflettuto e discusso sul tema è emersa tutta, secondo me, in quella che è stata, diciamo così, la parte destrutturante, cioè rispetto al tema del nostro lavoro. Cioè, noi siamo partiti dall'assunzione di fondo, che ci ha visti più o meno tutti d'accordo, della necessità di considerare il concetto di famiglia come una costruzione culturale, il concetto di famiglia tradizionale. E su questo eravate tutti d'accordo? Sì, alla fine sì, dopo un dibattito eravamo sicuramente tutti d'accordo, quindi questo secondo me è già un punto di partenza notevole, insomma. Certo. E questo ci ha permesso di mettere in discussione appunto la presunta naturalità della famiglia così come viene intesa nell'immaginario comune occidentale, appunto, cioè la famiglia mononucleare composta da padre, madre e figli, insomma, la famiglia eterosessuale, patriarcale, basata sul matrimonio e su legami di sangue, alle volte prima ancora che su quelli affettivi. Guarda che non c'è, insomma, neanche bisogno di tanti aggettivi, la famiglia è quella. Quindi l'approccio che abbiamo utilizzato è stato in primo luogo, tra l'altro, personale. Cioè, noi siamo partiti, anche in questo caso personale e soggettivo, cioè siamo partiti dai nostri vissuti, dai nostri desideri, da come vorremmo poter costruire, diciamo così, le nostre famiglie, o meglio le nostre reti relazionali, ecco, insomma. Che mi sembra meglio utilizzare questo termine, perché poi è effettivamente il termine che corrisponde a quello che poi noi abbiamo ideato, insomma. Certo. Cioè, e per farlo quindi abbiamo utilizzato lo strumento dell'intervista in profondità, cioè ci siamo intervistati a vicenda, diciamo così. E i tre punti guida di questa intervista erano: da dove veniamo, dove siamo, dove vorremmo andare, quindi molto ampie, diciamo. E sono emersi degli interessanti spunti di riflessione, secondo me. Cioè, ognuno di noi ha elaborato un proprio modello di vita, di relazione, diciamo così, che in nessun caso, questo è il punto, nemmeno per gli eterosessuali che erano tra noi, si identificava con il modello di famiglia tradizionale. E, cioè, è prevalso, io credo di poter dire, un modello generale abbastanza condiviso, fatto soprattutto di relazioni ampie ed estese. Cioè, quindi non è vero che poi è così naturale, insomma. No, evidentemente no, perché nessuno di noi voleva la famiglia tradizionale, esatto. Insomma. Insomma, quindi ci siamo sorpresi un po' tutti, diciamo, a pensare ad un modello generale di relazione appunto affettiva, amicale, d'amore, costituito da una pluralità di soggetti, insomma, che ha naturalmente, secondo me, messo in luce appunto quanto il modello di famiglia tradizionale, su cui spesso si basano appunto gli ordinamenti giuridici degli stati, sia da considerarsi superato rispetto anche alle esigenze dei singoli e delle singole. Questo ha fatto sì che appunto potessimo indagarci e pensarci proprio come soggetti che si realizzano attraverso tante relazioni umane di tanti tipi, tante sfaccettature, esattamente, no? E il tutto è stato poi rappresentato poi con una bellissima performance finale, insomma. E come tutti i momenti, avrei voluto essere una mosca e stare lì, sicuro. Insomma, la cosa interessante, tra l'altro, è stata anche che poi questa discussione rispetto al tema della famiglia ha avuto un seguito quando siamo stati poi a visitare la sede dell'associazione gay e lesbica Noansis, che è appunto un'associazione di Porto Alegre, che si trova appunto nel centro di Porto Alegre, nei pressi del mercato. Insomma, il responsabile che ci ha accolto ha appunto manifestato la sua totale adesione rispetto a quello che io stessa gli dicevo, cioè ovvero il rifiuto della politica delle unioni civili. Anche lì? E anche lì, che appunto lui stesso vedeva come la riproposizione di un modello di famiglia ritagliato su quello eterosessuale. Cioè, in sostanza, veramente, sia io che lui concordavamo pienamente sul fatto che il cosiddetto Pax, come appunto è, altro non è che una richiesta di normalizzazione, diciamo è così. È malato pure lui, insomma. È malato pure lui. Senza speranza. Anzi, cioè, quindi appunto dicevo, normalizzazione entro un modello di famiglia tradizionale, appunto, che non ci rappresenta, che anzi, appunto, dicevo, lui stesso ha detto è fallito, quindi uso certo. Le sue stesse parole. Insomma, quindi ne è emerso un bel dibattito sui diritti delle singole e dei singoli, che ci ha trovato, inutile dirlo, che ci trova appunto a noi certo. Del CLR pienamente d'accordo su tutta la linea. Esatto, insomma. Quindi diciamo che non soltanto la vostra esperienza teatrale lì ha trovato la sintonia con le altre realtà, diciamo che anche scavando un pochettino più in profondo su temi specifici, esatto. La sintonia si è trovata, perché poi non è vero che insomma siamo soltanto noi così malate che andiamo a rivendicare i diritti dei singoli, della persona, no, evidentemente insomma, c'è no. Qualcuno che la pensa come noi, insomma, okay, sì. Non siamo proprio fuori di testa, va no. Bene, allora io direi di mandare un'altra canzone, volevo mettere Fiorella Mannoia con una canzone che io adoro, mi piace tantissimo, e si intitola Apri la bocca e fai fuoco. Apri la bocca. Io mi tengo come sottofondo Fiorella Mannoia, che è una cantante che io adoro, sia per quello che canta, sia per come la pensa e le cose che dice e scrive. Allora, vi ricordiamo che siete all'ascolto di Una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romani all'interno dello spazio autogestita, femminista e lesbico di Radio Onda Rossa sugli 87-900 MHz. Di Roma. Rammentiamo che c'è però anche la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito con noi. Salutiamo tutte le donne che da più parti d'Italia ci hanno mandato un loro messaggio. Questa sera non è arrivato neanche uno, quindi datevi da fare, perché il telefono è acceso, funziona, forse non vi ricordate il numero, ve lo dico, che è 338-4146-682. Noi ci accontenteremo questa sera anche di un trillino, va bene? Basta fare uno squillo qui al telefono di Radio Onda Rossa allo 06 49 17 50. Sappiate che qui sul mixer c'è una lucetta verde che si accende ogni volta che suona il telefono, quindi noi capiamo che ci state ascoltando. Oppure, come diciamo sempre, se le cose che avete da dirci sono molte, potete inviarci un'email all'indirizzo di posta elettronica, che è contatti@clrbp.it. Oppure potete inviarci un fax allo 06 68 64 201. Ma c'è anche chi non è informatizzata, e quindi per gli amanti della carta potete scriverci una lettera indirizzandola a CLR presso Casa Internazionale delle Donne, via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. Allora, io sempre tenendomi, e non la lascerò più, Fiorella Mannoia, volevo continuare un attimo a fare un po' di domande, perché io voglio sapere veramente tutto, perché da tutto quello che avete fin qui detto è evidente che era prevista la partecipazione anche solo come auditrici o visitatrici non invadenti a diversi progetti, quindi se per piacere magari potete parlarcene in modo un pochettino più dettagliato, ci farebbe piacere sapere veramente che cosa avete fatto. Mm-hmm. Guarda, davvero abbiamo toccato con mano una realtà molto viva e molto fervida, che è quella appunto delle associazioni locali, che davvero sintetizzano con coerenza l'impegno sociale e politico a tutela dei diritti delle cittadine e dei cittadini discriminati. E abbiamo conosciuto diverse realtà locali, devo dire, che si occupano di discriminazione in senso molto ampio, quindi progetti rivolti a persone che vivono in situazioni di disagio e di emarginazione, e che in Brasile, come altrove, ovviamente sono per antonomasia prevalentemente donne e minori. E in particolare, appunto. Guarda, lì davvero abbiamo avuto modo di conoscere un'associazione che lavora da 12 anni, mi piace citarle, l'associazione si chiama Temis, che è nata dal lavoro di due avvocate femministe che, partendo così dal fare la loro consulenza legale, si sono rese conto che non era sufficiente e che quindi veramente era fondamentale fare proprio un lavoro di sensibilizzazione delle donne, soprattutto le donne della periferia, per sostenerle nel percepirsi soggette di diritto. E quindi hanno veramente elaborato, no, un interessante modello di passaggio di saperi al femminile. Loro attualmente si stanno occupando di donne vittime di violenza in famiglia nella periferia di Porto Alegre. Davvero il fenomeno della violenza in famiglia, come ci hanno raccontato anche loro, che insomma è molto diffuso nella città, come tra l'altro in Italia, ecco, tantissimo. Esatto, la cronaca ce l'ho appena ricordato. E queste donne fin da ragazzine imparano, come da noi, a sottomettersi passivamente alla volontà prima di padri padroni e poi di mariti violenti. E la portata del fenomeno lì è veramente molto vasta, soprattutto perché purtroppo le donne non denunciano per paura, per vergogna, perché non si sentono tutelate di fatto, e perché purtroppo non riconoscono neanche come violenza le situazioni che sono costrette a vivere. Per cui questa associazione Temis, appunto, oltre al sostegno legale, ha costruito proprio un percorso di formazione per giovani donne moltiplicatrici di cittadinanza. Bello. Mi piace molto questa espressione, davvero. donne moltiplicatrici di cittadinanza, con l'obiettivo appunto di informare e di formare, no, ai diritti di cittadinanza attiva donne, soprattutto giovani adulte e adolescenti che vivono in periferia, perché appunto loro prevedono un percorso formativo di qualche mese e formano appunto queste giovani donne a diventare esse stesse poi accompagnatrici di altre donne, no? Una sorta di tutoraggio alla pari per donne in difficoltà. E quindi loro veramente hanno elaborato questo percorso che è veramente interessante, che consente appunto questo accompagno, no, delle donne più deboli, più fragili nel tempo, e le lascia poi autonome, no, nella gestione di questa, di questo percorso. Poi abbiamo conosciuto anche altre realtà locali. È una, l'associazione Nuances, che è un'altra associazione molto forte, molto radicata nel territorio, accompagna giovani adolescenti omosessuali dai 14 ai 17 anni attraverso un lavoro inizialmente di prevenzione dell'AIDS e poi attraverso un percorso di inserimento in attività e laboratori culturali nel, nel cuore della città, proprio nella piazza del mercato, dove la loro visibilità è enorme. E quindi loro hanno modo proprio di attivarsi per se stessi e per i ragazzi che gli sono intorno. Quindi davvero il lavoro è stato molto interessante con loro. Nonché anche abbiamo conosciuto un altro gruppo molto forte che si occupa di ragazzi di strada o di ragazzi che vivono in condizioni di strada. Loro utilizzano le risorse del territorio, le risorse del quartiere per costruire un gruppo di facilitatori, no? Che lavorano poi con bambini e adolescenti nel territorio. È un po' questo, questo modello è molto diffuso, no? Di costruire delle forme di tutoraggio, che è molto interessante, far riflettere anche sull'impostazione, no, politica e sociale, che è molto diversa da quella occidentale. Certo, no? Anche perché non si interviene soltanto sull'effetto, no? Ma si, esatto, va ad agire sulle, esatto, cause che determinano poi certi comportamenti, certe situazioni e certe realtà, no? Sì, ma la cosa veramente che io ho trovato molto interessante, che potremmo veramente, come dire, un po' copiare, non sarebbe male, non sarebbe male, davvero hanno molto da insegnarci su questo, che proprio loro prevedono un costante passaggio di competenze, no? E di saperi attraverso i quali promuovere e costruire delle autonomie che non sono soltanto personali, no? Individuali, ma sono soprattutto territoriali. Certo, certo. Cioè loro lavorano soprattutto con le periferie, rendendole poi autonome, no? Quindi con l'obiettivo di implementare delle politiche territoriali decentrate in qualche modo, che noi agiscono tanto sul contesto, esatto, anche, no? Certo. Esatto, utilizzando le risorse del territorio. Certo. Quindi insomma devo dire che sul piano del confronto e della diversità, soprattutto di visione politica, un momento molto toccante per me è stato conoscere un'associazione per la tutela dei diritti dei travestiti e dei transessuali. Devo dire che lì veramente la povertà materiale, la mancanza di lavoro sembra lasciare intravedere esclusivamente la scelta della prostituzione, no? Per la maggior parte dei transessuali del luogo, questo lo sappiamo dalla storia, no? Che ci raccontano. Sì. E questa gente veramente sembra privata di ogni diritto e di ogni visibilità sociale, se non quella di essere mercanti del sesso, no? E quindi è sembrato un po' discordante che di giorno loro siano i difensori dei diritti in qualche modo e di notte siano mercanti del sesso. Devo dire che questa cosa ci ha molto interpellate, anche con Elena ci siamo interrogate su quali sono i diritti che vogliono far conoscere. Quindi un po' è stato veramente interessante ascoltare le loro testimonianze e vedere che comunque, a prescindere da tutto, c'è un fortissimo impegno sociale e politico in un contesto che è davvero di estremo disagio e di grande povertà, però c'è una notevole volontà di lotta per il riconoscimento dell'uguaglianza e per lottare contro le discriminazioni. Quindi è stata anche da questo punto di vista un'esperienza molto arricchente. Senti, visto che il tempo stringe, purtroppo io volevo mettere, sì, un'altra canzone, ma invece direi che stasera è molto più importante continuare a parlare, perché veramente l'argomento è bello. Rosa prima parlava di esperienza molto significativa, no? E che cosa ha rappresentato per te, che svolgi attività politica, Elena, all'interno di un collettivo come il CLR, questo tipo di esperienza? Beh, insomma, io devo dire, Caterina, che questa è stata la domanda naturalmente che mi sono posta quando ho deciso di partecipare appunto a questo progetto, e che ho continuato a pormi poi mentre lo svolgevo, e che continuo tuttora, diciamo, a pormi adesso dopo la partecipazione al progetto. E questa domanda in realtà a me me ne richiama un'altra, cioè mi richiama la domanda che il rappresentante di Nuances, appunto l'associazione gay e lesbica che abbiamo visitato, mi ha posto in seguito alla discussione poi che abbiamo avuto, che abbiamo appunto intavolato sui diritti delle singole e dei singoli, insomma, che ci ha visti sulla stessa linea. Cioè, lui mi ha chiesto: tu ritieni che sia indispensabile, cioè, uno spazio di sole donne, oppure non pensi che io e te, che siamo appunto d'accordo su tutta la linea, non potremmo magari lottare insieme? E ora, io, avendo fatto una scelta separatista, è inutile dire qual è stata chiaramente la mia risposta in questo senso, insomma. Io gli ho risposto in realtà con una domanda a mia volta. Cioè, gli ho chiesto come mai in un'associazione gay e lesbica non vedevo nessuna donna tra di loro lì, a parlare con noi. E lui mi ha risposto che nel corso comunque della sua esperienza politica ha dovuto in effetti constatare che per le lesbiche si pone una problematica di scarsa visibilità, diciamo, rispetto alla società dominante. Al che io, insomma, gli ho detto: allora le lesbiche non esistono nemmeno qui a Porta Alegre, insomma, scherzosamente. Certo. E appunto questo problema di scarsa visibilità finisce poi per riprodursi anche all'interno lui stesso lo ha detto, anche all'interno delle stesse associazioni politiche che si battono poi per i diritti degli omosessuali, certo, in generale. Certo. E quindi io posso dire che lui mi ha mostrato peraltro volantini, documenti che spingevano molto sul tema della visibilità lesbica, però nonostante questo impegno comunque sembra che a conti fatti le uniche due donne che appunto che erano presenti in quel momento nell'associazione stessero poi organizzandosi proprio in quel momento per creare un gruppo di sole lesbiche. Sì, ma infatti voglio dire, avere un obiettivo comune può essere rivendicato, affrontato anche da posizioni estremamente diverse. Quindi voglio dire, quindi io ora è inutile dire che io credo fermamente che sia indispensabile, appunto essendo facendo parte del CLR, indispensabile, imprescindibile, diciamo, uno spazio politico di confronto e di produzione di sapere e nonché di scambio di esperienze. Certo. Che sia solo tra donne, e soprattutto ritengo che questo spazio rappresenti un punto di partenza per elaborare naturalmente modelli alternativi rispetto alla società maschilista e patriarcale appunto in cui viviamo. Certamente. Quindi, cioè, è la cosa che credo di poter rilevare a questo punto, insomma, senza chiaramente nulla togliere poi all'importanza e alla positività di questo progetto di cui abbiamo ampiamente parlato, certo, insomma, è che anche all'interno del gruppo lì a Porta Alegre la voce delle donne si sentiva molto poco, cioè l'abbiamo constatato noi, lo abbiamo detto, nonostante numericamente noi fossimo pari. Cioè, insomma, eravamo praticamente noi della Casa Internazionale delle Donne a rappresentare l'anima femminista del gruppo. Peraltro io devo dirlo questo, specie all'inizio, vista con un po' di diffidenza, diciamo, questa cosa, e non solo dagli uomini, ma anche dalle altre donne che provenivano da associazioni, diciamo, miste. Certo. Quindi anche per esempio non parlando... si comprende da subito, insomma, no, che infatti, appunto anche parlando con le altre ragazze argentine, brasiliane, con l'unica ragazza tedesca che era là, quello che notavo era una sorta di, mi viene da definirlo così, una sorta di appiattimento tra virgolette della specificità lesbica, chiamiamola così, appunto sull'identità omosessuale. E quindi appiattimento, diciamo, che non tiene conto della discriminante di genere che appunto nel caso delle donne si va inevitabilmente a sovrapporre, a intersecare a, diciamo, all'identità omosessuale, insomma, e semplificando, insomma, di molto il discorso, dando origine poi a quella sorta di rimozione culturale, no? Che ci fa dire a noi lesbiche, scherzosamente, che le lesbiche in questa società non esistono. Però, per ritornare appunto alla tua domanda, Caterina, ciò non toglie, e qui arriviamo comunque a noi appunto, che sono anche fortemente convinta che, ferma restando quindi la necessità del momento separatista, cioè della strategia politica separatista, poi sia necessario anche per certi aspetti uscire all'esterno, insomma, certo, è fondamentale, cercando uno spazio di confronto, quindi proiettando proiettato verso il fuori, e credo comunque che questo progetto abbia insomma rappresentato in termini politici questo per me, che provengo appunto da un'associazione lesbica e femminista che sceglie appunto il separatismo come strategia politica. Cioè, io non posso comunque fare a meno di ripensare a quello che comunque ci hanno detto quegli stessi uomini che inizialmente mostravano quasi diffidenza di fronte alla stessa parola femminismo, insomma, dopo che la nostra rappresentazione teatrale sull'esperienza di Temis, ci hanno detto: adesso ho capito la tua posizione, ho capito perché stai in un collettivo di sole donne, cioè ho colto il messaggio della vostra rappresentazione. Quindi Esattamente questo, cioè quindi tramite quell'uscire fuori, cioè facendolo peraltro nel caso specifico attraverso appunto un laboratorio teatrale, quindi attraverso un linguaggio negoziato, simbolico, condiviso, insomma, mm-hmm. il pubblico, quindi tutto, uomini e donne, è come se si fosse reso, direi quasi per la prima volta, se suonerà strano appunto, però quasi si fosse reso conto per la prima volta della concreta esistenza di una trasversale discriminazione di genere, insomma, che poi si va a sovrapporre, ad intrecciare a tutte le altre forme di discriminazione che noi abbiamo incontrato strada facendo nel nostro percorso. E insomma, io credo che sia stato proprio questo uscire all'esterno, questo confronto, no, che ha portato ad esempio alcune di noi donne presenti, che eravamo appunto noi tre della casa, ma anche altre, per esempio molte dell'organizzazione stessa, a sentire poi l'esigenza di realizzare per la prossima tappa, che si dovrebbe svolgere, se tutto va bene, a Berlino, un gruppo tematico di lavoro di sole donne che abbia al centro della discussione proprio il femminismo. E quindi io credo che la spontanea nascita di questa esigenza, che comunque era realmente sentita dopo questi 10 giorni, io la considero frutto di questo, proprio, di questo percorso di elaborazione politica che prevede anche e soprattutto un confronto poi con l'esterno, insomma, mm-hmm. che prevede il portare fuori questo sapere di donne, che appunto non è un sapere arcano, misterioso, ma insomma, come spesso viene un po' la stregoneria, insomma, ma invece è in primo luogo rappresentato da un punto di vista diverso, diciamo altro sulla realtà rispetto al potere centrale, che è un potere maschile. E questo sapere, insomma, elaborato tra donne, va poi in qualche modo chiaramente anche messo in campo, reso visibile, reso conoscibile, insomma. Mm-hmm. E io credo che di aver apportato, diciamo, in questo contesto misto, con la mia presenza di donna lesbica che sceglie un percorso politico di tipo separatista, proprio questo sguardo decentrato su tutto quello che si veniva producendo e realizzando appunto in quei 10 giorni. Io, cioè, il radio non si vede, ma sto a 1,5 metri da terra perché sto lì. Limitando. Senti, allora, visto che veramente il tempo stringe, io mando un'ultima canzone che è di Sally, che è la cantante che fa parte dell'associazione culturale Green Tomatoes di Torino e che è venuta da noi sabato scorso durante la nostra iniziativa. E è una sua canzone e io direi di chiudere qui la trasmissione sulle parole della canzone che si intitola Alternative di Sally. Ringraziamo tutte quelle che sicuramente ci hanno ascoltato, ma che probabilmente non hanno avuto il tempo perché volevano ascoltare tutte le cose che ci avete detto. E sulle note della canzone di Sally, il coordinamento lesbiche romane intanto ringrazia Rosa di essere intervenuta a questa grazie trasmissione, a ringrazio Elena, ma lei è di casa, sì, come si dice, quindi va bene così, e vi dà appuntamento alla settimana prossima, quindi 28 febbraio, con la replica di questa trasmissione. Ciao a tutte e alla settimana prossima. È sempre un gran dolore per chi le ama e non sa. Camminano per strada, per mano a volte anche di più. Alternative sole o donne da accudire, gaie o tristi con un corpo da scaldare. Avventuriere sole, un segno sopra il cuore. Le donne amano. Innanzitutto tu è il mio diritto amore e non mi arrenderò mai. Con gli amici tu lo sai, una maschera sul viso, un trucco stanco ormai. Appesa ad un destino, per mano a volte anche di più. Alternative sole o donne da accudire, gaie o tristi